alle mie stelle scostati. Mostrami che fai, cieco riflesso che non sai specchiare, scollati dal vuoto mio e frantumati. Silenzio scuro.